Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, I'm about to say hello, non vedo assolutamente in Renzi un erede di Berlusconi. Le cose che fa, le fa soltanto nel suo personale interesse. L'ultima cosa che ha occupato è la RAI, e voi lo sapete bene, voi che ci siete dentro. Guai se Berlusconi avesse fatto la metà di quello che ha fatto Renzi con la RAI, sarebbe successa la rivoluzione. Come fa a perdonare Verdini che lo tiene in piedi? Io infatti non lo perdono affatto. Io sono una persona che non sa portare rancore, non sono uno di quelli che dice con quello non prenderei neppure un caffè. Poi invece l'ha preso. Ma allora ha ragione. Io non porto, no, non sono capace porta di rancore personale, no, nei confronti di chiunque. Ma fa benissimo, ci mancherebbe. Dottor Sordi, lei con la sua esperienza sa che differenza c'è tra una supposta e un carciofo? Beh, probabilmente se un carciofo nel culo vede che capisce subito. Questo per venire fuori completo. Sempre è tornato Berlusconi, signori, ed è venerdì. Venerdì, le 6:32 di venerdì 27 maggio, buongiorno. E allora, buon venerdì a tutti, da tutti è voi. È venerdì, sì. Urliamolo tutti insieme, Milan. È venerdì, è venerdì, è venerdì. E allora, cari ascoltatori, buongiorno a tutti, saluto Cesare, saluto tutti coloro che ci scrivono al 349-238-6666. Devo subito convocare il nostro amico Vincino. Buongiorno. Come stai? È venerdì, non ti sei svegliato con un'aria un po' friccicorina così? Ma. No, ma. Ma. No, no. Così. Così. Ancora non ho capito. Non sei, a che ora ti svegli quando ti chiamiamo? Fammi, alle 5:40. Come, perché alle 5:40? Perché alle 5, perché devo carburare. Devo prendermi un caffè, devo riuscire a capire. E poi come va avanti la tua giornata quando ti salutiamo alle 7? Quando mi salutate alle 7 mi rimetto a dormire per certo, un'ora. È certo. In generale. Bravo. No. A volte vado 2-3 ore, a volte invece e niente, poi giornalaio e le varie cose da fare. È vero, la bella no, vita, beh, la bella vita, vuol dire. Vabbè, insomma, eccoci qua. No, non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo, bravo, non ci lamentiamo. Continuiamo a divertire alla grande, guarda, non. Eccolo qua. Allora, allora, insieme a Vincino voglio salutare Luisella Costa Magna. Che bello! Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno. Tu invece che fai? Quando, a che ora ti svegli quando ti chiamiamo? Io alle 5 e mezza. Ma dai, su, ma non è vero. Ma smettetela. Ho la carburazione lenta. Ma non è vero. E poi dormi. Ho preso due caffè. Dormi anche tu poi? Alle 7? No, no, no, perché no. Poi sono sveglia. Ah. Vado magari poi a dormire nel pomeriggio. Nel pomeriggio. Non ci riesco. Ecco. Ma, vabbè. No, no, no. Vabbè. No, scusate se vi faccio un po' i fatti vostri. Perché quando mi incontrano la gente per strada dice: ma tu ti svegli alle 5, ma poi dormi nel pomeriggio? Mi chiedono robe della ma vita. Ma tu dormi? No, non, cioè, se, no, non riesco quasi mai. Non riesco quasi mai. Ah. Ma poi arrivo in quella fase in cui ho talmente sonno che sei agitato e non prendi sonno. E quindi. E vabbè, oh, che devi fare? Ognuno. Poi dormi nel weekend. Dormo nel weekend, ma non so, sai, con due figli. Che devi fare? Che devi fare? Va bene, allora, allora, ma chi l'ha detto che questa riforma del Senato cancellerà il Senato? A parte che non è vero che lo cancellerà, ma insomma, soprattutto, caro Vincino, mi hai fatto pensare tu, perché io ho messo un tweet poco fa e tu mi hai risposto. Vedete, chi l'ha detto che il Senato non servirà? Per esempio il senatore Marco Filippi, senatore del Partito Democratico, ha deciso di utilizzare il Senato per fare un'interrogazione parlamentare fondamentale, che è questa: caro Renzi, caro governo, fai qualcosa per evitare la retrocessione del Livorno in Serie C, perché nell'ultima partita con il Lanciano ha subito un chiaro errore arbitrale certificato poi dalla Moviola, che ha squalificato per simulazione un giocatore del Lanciano che si è conquistato così un rigore decisivo. Ma scusa, è quella del portiere che sì. Si fa l'autogol praticamente. No, sì, allora no. Cioè, non è un portiere così deficiente che deve fare. No, cioè, non è proprio. No, ma stai attento che a Livorno sono abbastanza arrabbiati per questa cosa. Noi ci siamo salvati così, proprio pelo pelo. Sì, sul 2-0 per il Livorno c'è un rigore per il Lanciano che in realtà non c'era. E rigore ed espulsione del portiere, per cui poi è entrato il portiere, quello che ha fatto la papera, che ha preso anche un pugno in faccia. Non era il portiere quello là. No, il portiere è stato espulso. Okay, è stato espulso. Allora ha ragione il senatore. No. Allora salviamo la gioia. Ma ha convinto subito. Ma che poi io dico: ma sei di Livorno e chiedi a uno di Firenze di evitare la retrocessione del Livorno, senatore Filippi. Vabbè, ma i senatori rappresentano il territorio e nel territorio è la squadra la cosa fondamentale. Ma a Firenze, Firenze saranno felicissimi per la retrocessione del Livorno, cioè i campanili in Toscana, cioè, ma capisci? Vabbè, insomma, comunque dai, apriamo il Parlamento. Cara Luisella, vedi, non ci potrà essere più un senatore Filippi, forse, che fa queste interrogazioni una volta. Io sono della Juve, quindi non ho bisogno di interventi al Senato. Ecco, cosa vuoi dire con questo? Che la Juve. Voglio dire che siamo al quinto scudetto consecutivo e quindi sono ben felice, non c'è bisogno di far lavorare il Senato per quello. Pensavo volessi dire che la Juve non ha bisogno, perché già errori arbitrali. Insomma, di aiuti arbitrali esatto, ne ha avuto. Non ne ha bisogno di interventi. Ma 20 scudetti ne ha avuti, guarda. Ma per carità, siamo più forti. C'è una letteratura immane su quanto la Juve ha rubato all'Italia in tutti i sensi, diciamolo. Bravo Vincino, vai avanti. La retorica dei perdenti. La retorica dei perdenti. Ma noi dei perdenti, noi del Palermo non siamo perdenti, siamo così, insomma. Derelitte. Invece voglio vincere nella vita. Vabbè, comunque. Ma rincontro persone sempre che vogliono vincere, mamma mia. Io quello che mi chiamo Vincino assolutamente no, guarda, mi accontento di un posto così, lontano dalla vittoria. Felice tu, felice. Tutti, però cara Luisella, dai, ma perché il Fatto Quotidiano ce l'ha, tu che scrivi sul Fatto Quotidiano anche oggi, mamma mia sta roba del referendum, ma non possiamo sospendere un po' e parlarne a settembre, parlare d'altro devi dirlo al Fatto Quotidiano, devi dirlo al Presidente del Consiglio che visto che ha paura di perdere le comunali ha tarato tutto sul referendum, parla solo di quello, cioè ormai è uno schieramento ce la si prende coi partigiani, però Confindustria può schierarsi per a favore del sia referendum. Però ci saranno i veri di Confindustria. Aspetta, aspetta, Confindustria, aspetta che mi metto in ginocchio un attimo, perché aspetta, messo, metto la cravatta un attimo. Ecco, sì, vai avanti. No, mi sono messo in ginocchio, scusa, hai detto Confindustria, io mi sono messo sull'attenti come il Marò. Bravo, bravo, bravo. Vabbè. Hai ragione, non ci avevo pensato, però è così, cioè, voglio dire, dopo aver scritto Jobs Act, adesso intervengono sulla riforma costituzionale, dopodiché bisogna parlarne, mancano 5 mesi, siamo appunto, già mancano 5 mesi, io arrivo prosciugato se iniziamo adesso. Anche perché poi è tutta una campagna elettorale fatta su schieramenti aprioristici, nessuno che spieghi poi nel merito cos'è questa riforma e quanto è brutta questa riforma. Quindi si spiegasse, almeno Fatto Quotidiano lo spiega, diciamo. Effettivamente sul fatto che non ci sia un dibattito su quello che contiene la riforma, ma voto sì, voto no. E giustamente molti mi ci hanno scritto dicendo sì, ma voto sì, voto no. Ma qualcuno ci dice su che razza di riforma dobbiamo votare? Anche questo è Renzi, che fa tutta una battaglia su se stesso, mi gioco tutto, quindi si vota per lui, per schierarsi su di lui. Ma guardate che l'altro giorno abbiamo ospitato Pagnoncelli. Ha detto che da sondaggi il 20% degli italiani interrogati non sa neanche di che cosa stiamo parlando. È vicino, è uno su 5. Ma il 20, come dire, è anche assai poco, sai, come non lo so. No, il 20 proprio non sa niente. Ma, il 20... ma insomma, secondo me la metà, i tre quarti degli italiani non sanno niente cosa c'è in questa riforma. Ma come tre quarti dei parlamentari. Vabbè, questo assolutamente sì, parlamentari assolutamente, quelli sono proprio i peggio di tutti. Però scusa una cosa, cioè il fatto cade Renzi vuole vincere le comunali con il referendum, è una cosa pazzesca, ma ci riesce perché lui occupa tutto, non spiega niente, 300 poltrone in meno, ma che, come dire, manco fossimo a Ikea, non lo so, ma che ci frega, cioè è la poltrona della, come dire, non lo so, è il referendum sul mobile, sul festival del mobile, che cosa mi frega a me 300 poltrone in più in meno, se come dire, la Costituzione non è questo, non è qualche, però dico, il fatto che cade, tutti i giornali cadono nella cosa di Renzi, no, e via. Ecco, per esempio, ecco, chi cade nella cosa di Renzi, sentite tutti, anche qua, a tutti, ma no, tutti, anche il senatore, pensate, il senatore Carbone, non so se voi lo conoscete, il senatore Carbone, il senatore Carbone. Ciaone, senatore Carbone, brava, senti qua, il senatore Carbone, senti. Lei, se il referendum non passa, lascia la politica anche lei? No, ma ti posso dire una cosa? La risposta è sì e spiego anche perché. No, rimani con Ciaone, Carbone, c'è Carbone, lascia la politica. Ma quando vi è entrato in politica? Io ancora non l'ho capito. E lui la lascia il senatore Carbone. No, vi prego, cittadini, il senatore Carbone lascia la politica. Se no, passa, stanno aggiungendo un sacco di motivi in più per votare no, perché da Renzi, Bossi, Ciaone, il senatore Ciaone, quindi Carbone, Vincino, per votare no, così Vincino, mettiti una mano sul cuore quando entrerai nell'urna a votare, pensa al senatore Carbone che rischia di lasciarci. Carbone è giovane, carino, così là, non, come dire, non è... Cioè, allora Renzi, se uno vota come vota la maggior parte degli italiani, guardando una foto, Renzi convince di più degli altri, obiettivamente, non è che è insopportabile, però gli altri, chi c'è? Allora, spiegami qual è il governo Di Maio, ma io scappo dall'Italia, guarda, un imbecille come Di Maio al governo, via, non è che con quella faccetta così, che non un'idea nella sua vita non l'ha mai avuta. Perché sto prendendo appunti. Aspetta, Di Maio, scappo dall'Italia, quell'imbecille. Un'idea non l'ha mai avuta, un'idea che sia una. Che non ha idea. Va bene, perché cioè, voglio farti passare un bel venerdì. Salvini, vado in Australia, guarda, col Salvini. Governo Salvini, in Australia, guarda, non lo so. Cioè, allora il PD mi trova un'alternativa a lui. I vecchi Renzi, se la convince Renzi ci sta dicendo che è il meno peggio per lui, il meno peggio. È un disastro, guarda, è un disastro. Ma io vorrei te, io con Luisella Costamagna magari sì, no, meno che alla giustizia, perché no, è troppo, lei è per la prescrizione a vita, no, per favore, non è che no. È per il processo della trattativa che dura 20 anni, ancora non ha risolto niente, abbiamo speso un miliardo e mezzo di euro a cavolo, no, Ciancimino, il più farlocco del mondo. Si è svegliato, cioè, quindi non ti mette alla giustizia, basta. Però un ministero te lo darebbe. Cara Luisa, sì, lavori pubblici, però, vedi, Vincino fa, candido e non cerco il secondo voto me, di Vincino, per carità. Secondo me Vincino fa questo errore, cara Luisella, diciamoglielo. Anche lui personalizza, vedi, se o Renzi o Salvini le persone, gli italiani votano le persone, avete distrutto i partiti. Di recente ho scritto una lettera sul fatto che proprio la retorica dell'elettorato PD, non dico centrosinistra perché ormai centrosinistra non vuol dire niente, sono tutti di centrodestra, però che è un dialogo con questi elettori che dicono ma non c'è alternativa, cioè di fronte a Renzi, a tutti i problemi che ci sono, a tutto quello che ha fatto, all'alleanza e patto della soppressata con Verdini, però non c'è alternativa. Non vogliono vedere alternativa a Renzi, quindi si ciucciassero Renzi, purtroppo lo fanno ciucciare a tutti. Dimmela l'alternativa, dimmela. Come? Qual è l'alternativa? Ma perché tu vuoi un nome? Mi sembra che ci siano alternative. Però adesso diglielo un nome. Ci siano elementi nuovi, perlomeno, almeno diciamo che hanno delle caratteristiche migliori. Ma chi? Che non Carbone. Alleanze Carbone. Con Danna o con chi? Il senatore Ciaone. Carbone. Non lo so. Oppure questo qua forse, Riganato. Forse lo conosci, Vincino? Riganato di Ala Verdini. Senti qui, Riganato. Dica tranquillamente, non c'è la camorra, dai. Non esiste la camorra. Certo. Anzi, se esiste la si deve combattere. Sì. Non esiste la camorra. Se esiste la bisogna combatterla, alla Zazà. Scusa, però parlate, Verdini non esiste, sono in campo elettorale, Verdini allo 0,0%, come dire, ha 20 deputati perché l'ha rubati a Berlusconi che aveva i voti, ma Verdini non ha voti. Io vorrei vedere Verdini se si candida. È una sola, come dire. Vada a dire a Cosenza se non ha voti, se non ha pacchetti di voti e sta facendo campagna elettorale. No, ma ho capito, ma se Verdini si candidasse premier, cioè quanto prende? Quanto prende? 0,3%. No, ma apposta, non è nei sondaggi, non esiste Ala, non c'è. Non c'è. Ma come dire, però tiene in piedi il governo, Ala. Ho capito, tiene in piedi il governo con il dragone. Grazie ai voti di Ala, non ce l'avrà sul territorio, ammesso non concesso che non ce li ha. Non ce li ha sul territorio, no. Sicuramente vai a vedere i sondaggi, non trovi un sondaggio che dà manco un 1% ad Ala. È così. Non è che io non credo ai sondaggi, va bene, però come dire. Però il senatore d'Ala da cui ripartiamo dopo. Come NCD non ce l'ha manco lui. Aspetta, NCD. Di Ala, qua stiamo dando Berlusconi i voti, stiamo dando i numeri e le sigle, ma è così. Allora, però, dopo il traffico, il partito Ala di Verdini si distingue per il senatore Danna che insiste ancora su Saviano, la scorta, dice: insisto, non chiedo scusa a nessuno, anzi togliamo la scorta a Saviano e con quei soldi risparmiati combattiamo la camorra. Ma ti pare normale? Che paese viviamo? Tra poco. Mamma mia, non ce la faccio più, non ce la faccio più, e datemi sto benedetto tratti. Caro Milan, a ridosso di queste elezioni, guarda caso, si sta aggiustando anche la situazione del fuciliere di Marina. Certo che a pensar male si fa peccato, ma a non pensarci. Qualcuno comincia a dire che c'è un programma segreto che prevede che l'Italia e Grecia diventino l'Africa del Nord e gli italiani e i greci fuori dai coglioni. State sempre a di tronca e tronca di via, il commissario tronca di là e su e giù, è bravo, è bravo una sega. Quando si tratta poi di far pagare le tasse alla chiesa, anche lui fa come i chioccioloni, si ritira. Milan, ti è passata la ciucca di Roma? Ciao Bigol. Luisella Costamagna, capolavoro della natura, bellezza e intelligenza messi proprio meglio di così non si vuole. Vabbè, insomma, che dichiarazione d'amore, eh? Poi ti do il numero di telefono, davvero, cara Luisella, di questo nostro ascoltatore. Sì, mi è passata la cos'è, la roba di Roma, dove ci avete rubato anche la Coppa Italia. Ieri sono andato a vedere, beh, a Milano, favore, ma che rubato, siamo, vabbè, bravi, ma... siamo i più forti. Ma rubato, sì, si fa per dire così. Allora, già, ieri sono andato a Milano, vero. A Milano c'è un clima bellissimo in questi giorni, perché ci sono attesi 40.000 tifosi da Madrid, e se andate in Duomo, secondo me infatti il Cardinal Scola starà già tirando delle bestemmie quasi, perché da no, due giorni c'è la musica techno in piazza del Duomo, è una roba pazzesca. Però è bello, sono andato a vedere la coppa esposta in Duomo, così, la coppa dei campioni. È presente, Luisella? Ma voi... noi ce l'abbiamo ben chiara, invece la coppa dei campioni. Ma beh, sì, da lontano ce l'avete ben chiara. Noi ne abbiamo vinte, quindi insomma, sì, vabbè, parte del avete vinte due. Sì, sì. Vabbè, sì, avete vinto la coppa dei campioni. Sì, certo, l'avete sì, vinto. Abbiamo vinto la coppa. Sì, sì, sì, va bene, certo, un paio striminzite, sì. Va bene. Allora, prima di questa cosa di Danna, ma tu, Luisella, dove voti? Posso farmi i fatti io tuoi? Io voto a Roma. Ah, quindi a Roma. E chi voti? Voto a Roma e devo dire che... Vabbè, si può dire chi voti? No. Ma no. Io, guarda, ti dico due cose, perché la prima è che vabbè, è chiaro il rapporto tra vecchio e nuovo, e sul vecchio da Giachetti, PD, Rutelli, sì, a Marchini, alla Meloni, più vecchio di così, ma ho trovato delle chicche, perché mi sto spulciando un po' i programmi, e ad esempio nel programma di Marchini, con cui dovevo fare un video forum, al momento non si è ancora organizzato perché doveva rispondere delle cose sulle società, che diceva di aver ceduto, però il suo programma ha degli elementi esilaranti, fa in 101 punti, no? A proposito dei problemi, vivendo a Roma, ce l'ho qui davanti, punto 9, stop allagamenti grazie ai tombini tecnologici, quindi sì, pensa tutto una cosa... incredibile, sei l'unica che ha letto i programmi. Cioè. No, i tombini tecnologici, pensandole a Roma, poi se vedi un allagamento lo indichi il tombino e chiami, non hai bisogno dei tombini tecnologici. Sì. E poi nel programma c'è anche... due giornate l'anno di volontariato civico, bello, durante le quali i cittadini potranno donare ore del proprio tempo al recupero del decoro. Anche Marchini, della città. Anche Marchini fa fare un giro in Ferrari a chi vuole. Marchini fa ci fare. Prenderemo cura insieme della città equipaggiati con scopa. Bello, bello, io me lo vedo Vincino che scende in strada con la scopa, tu ti vedi Vincino. Ma proprio gli mortacci tua, ci avete fare azione no, di Romagna. Ma no, dai. Ti votiamo, caspita, ti votiamo e tu ci fai lavorare. A pulire la strada, questo è veramente esilarante. La pigrizia, tu che non sei romana, dovresti essere piemontese, a quanto ne so io, sì, no? Dalle parti di mio padre, per cui vi conosco, gente piemontese, ma come dire, fai l'esaltazione della pigrizia dei romani. Io non lo so, ma veramente, cioè, sei la capitale ti ha corrotta sino in fondo. Ecco qua, però, ieri Vincino ieri ha detto questa cosa. Ieri ha chiamato Lorenzo Nespoli, vorrei che tu la ripetessi. Ha detto: se Vincino ha detto, se vince la Raggi, metto un adesivo sulla mano. Lui va in Australia. Sì, un buon motivo per votare la Raggi. Ecco. La Raggi, cioè, ho fatto oggi l'appiccico da mettere sull'auto, perché, come dire, quelli sono onesti ma in doppia fila, hai capito? Appena arriva il vigile, tutti corrono, aiuto ma il vigile, vota, e con la Raggi. Non lo so chi vota, non allora, lo so. Io sono indeciso, Allora, credo Giachetti. Giachetti è il più onesto dentro il raccordo anulare. E questo l'hai già detto. No, no, ma è sperimentato, non è che lui tentato di corromperlo quando era sotto. No, però aspetta, ma l'adesivo, che cosa ci metti sull'adesivo? Nell'adesivo ci sono i 5 stelle, e c'è multa esente, 5 stelle, sindaca Raggi, imperavit, non si può fare la multa, il pacione di Grillo, assolutamente, ritagliatelo dal foglio che è a colori oggi dentro, perché il foglio già è pieno di disegni bellissimi, cioè, al contrario del fatto che ha solo fatti. Con questo adesivo tu pensi di non pagare la multa? Non pagherai la multa, assolutamente, perché è garantito dalla Raggi questa cosa qua. Quindi chi voti? Sono indeciso, guarda. Tra Giachetti? Tra Giachetti.